Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. La pacchia è finita per lui, non è finita per noi. La pacchia per noi non esiste. Our house is on fire, but I don't want your hope. I want you to panic. L'indigesto. Notizie e approfondimenti in salsa arancione. Le 17 in punto di questo lunedì 24 di febbraio, un buon pomeriggio a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto dei 103.100 di Radio Città Fujiko. Io sono Alessandro Canella, questo è il nostro spazio di informazione e approfondimento pomeridiano proprio su Radio Città Fujiko. Staremo insieme un'oretta oggi in una puntata interamente dedicata ovviamente al coronavirus e affronteremo il tema da vari punti di vista, dal punto di vista sicuramente sanitario, dal punto di vista anche commerciale, perché ci sono speculazioni che sono già iniziate facendo leva sulla crescita della domanda per prodotti ad esempio come i disinfettanti o le mascherine, e parleremo anche del tema del lavoro, perché come sapete è in vigore da ieri, da oggi in realtà, dalla mezzanotte di oggi, un'ordinanza regionale che chiude tutta una serie di strutture pubbliche e annulla anche una serie di eventi anche privati, e c'è molto caos, quindi cercheremo di capire quali tutele hanno le lavoratrici e i lavoratori che sono costretti a stare a casa perché il loro luogo di lavoro è chiuso, e anche perché oggi si è tenuto proprio su questo tema un vertice in regione. Quello di cui non parleremo sono le polemiche politiche, perché non ci interessano. Penso che voi ascoltatrici e ascoltatori vogliate avere invece informazioni più dettagliate, come dire, non tanto su quello che dice Salvini o questo o quell'altro politico, ma sui comportamenti da adottare, su cosa hanno deciso le autorità, eccetera, eccetera. E poi avremo tante notizie che vi leggeremo, lanci di agenzia per raccontare quella che è stata una lunga giornata che non è ancora terminata. Pochi minuti fa ha parlato nuovamente alla stampa il ministro, l'assessore regionale uscente alla sanità Sergio Venturi. Vi faremo ascoltare le sue parole. Avremo una telefonata in diretta con il segretario generale della CGIL, ma parleremo anche con SGB. Insomma, una puntata molto ricca. Cominciamo allora da fare un po' di riepilogo, perché qui i numeri cambiano costantemente di giorno in giorno, ma oramai è il caso di dire di ora in ora, se non di minuto in minuto. A livello nazionale il coronavirus ha provocato finora 6 morti, persone anziane o malati oncologici, insomma persone fragili che difficilmente superano anche problemi come un'influenza, e sono 229 i casi registrati di contagio appunto di questo virus. Questo a livello nazionale. Poi sentiremo il punto che ha fatto il capo della Protezione Civile oggi a mezzogiorno, che per forza di cose non è ancora del tutto aggiornato. Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, in Emilia-Romagna ci sono 8 nuovi casi di coronavirus, tutti riconducibili al focolaio lombardo. Lo ha fatto sapere la regione spiegando che si tratta di 5 persone a Piacenza, 4 cittadini dell'Odigiano, appunto negli ospedali di Piacenza, 2 persone nella provincia di Parma che si erano recate a Codogno, e poi un cittadino modenese, un residente del Modenese che ha lavorato per alcune settimane nell'Odigiano e ora è ricoverato al reparto malattie infettive del Policlinico di Modena. Quindi complessivamente i casi in regione sono 17, poi sentiremo le parole di Sergio Venturi che ce lo spiega per bene, anche perché non è solo importante il numero, ma anche poter ricostruire come si sono ammalate queste persone, come hanno contratto il virus. Insomma, questa è una lunga diretta, direi di cominciarla subito con la musica degli Smuggler Brothers. We'll be right back. Allora torniamo in diretta alle 17:06 minuti di questo lunedì 24 di febbraio per questa diretta incentrata sul coronavirus. Come sapete, in vigore nell'Emilia Romagna c'è un'ordinanza che prevede la chiusura di scuole, musei, università, cinema e tutta una serie altra di luoghi, e questo poi appunto avremo modo anche di parlare per le conseguenze che provoca. Direi di fare subito il punto della situazione a livello nazionale. È un punto della situazione che per forza di cose non è aggiornato, perché il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli l'ha fatto oggi alle 12 e nel frattempo è stato registrato un nuovo decesso e anche altri contagi. In ogni caso, questo punto della situazione ci aiuta un po' a inquadrare il fenomeno. Direi di ascoltare le sue parole. Do lettura del nostro bollettino di oggi alle ore 12. Abbiamo un totale di contagiati di 219 persone. Abbiamo 5 deceduti, si è aggiunta da pochissimo un decesso in Lombardia. Si tratta di una persona adulta, di un maschio di 88 anni, di Caselle Landi. Il dato, quindi, come ho detto prima, sono 219 contagiati, 5 deceduti e un guarito. I dati relativamente alla regione Lombardia sono in totale 167, 163 sono i positivi e 4 i deceduti. Il Veneto ha 26 casi in totale, 27 scusate, con un deceduto, quindi 26 sono i positivi attuali. La regione Emilia-Romagna ha 18 contagiati, la regione Piemonte attualmente ha 4 contagiati, 2 casi sono stati esclusi e a seguito di ripetute analisi sono risultati negativi. La regione Lazio ha in totale 3 positivi, di cui 1 dimesso, e 2 sempre la coppia dei cinesi che sono ricoverati all'ospedale Spallanzani. In totale dei 213 casi positivi, che non sono né deceduti né guariti, abbiamo 99 sono ricoverati con sintomi negli ospedali, 23 che si aggiungono ai 99 sono in terapia intensiva, 91 sono in isolamento domiciliare, quindi non hanno particolari esigenze di cure da essere ricoverati. L'indigesto. On some nerd shit, I'm shitting on birds while you sitting beneath bird shit. Is that over your head? Like a spaceship going through a black hole, entering the matrix. Am I hitting the red on the speakers? I think it's cause I'm freaking this beat so ridiculous. And if you think this my peak, this just the beginning. Quick peek into the future when I'm winning. Star Trek Enterprise representing in my alien secret identity I've yet to mention. Yeah, I'm here and now, I check my mentions, but I do it for the paper, not for the attention. I like the old ways, yeah, sharing dope bitches. I'm more analog, introvert, smoke swishes, quotitious, flow vicious, goat wishes. With a dope missus, all hits, no misses. It's my time, it's always been, I know, bitches. Yeah, I know, it's like... Di calibro 35 ci riportano in diretta, abbiamo sentito il quadro nazionale sul coronavirus e ora parliamo dell'Emilia-Romagna. Come sapete, alla mezzanotte di oggi è entrata in vigore un'ordinanza decisa ieri dal presidente della regione Stefano Bonaccini e dal ministro alla sanità Roberto Speranza, che prevede tutta una serie di locali che devono chiudere. Però oggi si sono moltiplicati i dubbi su alcune strutture che non erano citate cancellate esplicitamente dall'ordinanza per capire se rimangono aperte oppure no. E, ad esempio, la questione dei dormitori. In Emilia-Romagna per ora i dormitori restano aperti. Chiudere significherebbe mettere in strada molte persone, soprattutto ora che il piano freddo è attivo, e questo creerebbe il panico, afferma Antonina De Marinis, coordinatrice del centro Rostom. All'interno del dormitorio rispettiamo le indicazioni date dalla regione, ma non indossiamo mascherine, ospitiamo abitualmente persone malate di tubercolosi. Il coronavirus non ci coglie impreparati. L'unica indicazione che abbiamo avuto è che se un ospite presenta i sintomi non bisogna portarlo in ospedale, ma chiamare il numero verde regionale che è 800 46 23 40. Questo lo ripeto perché può essere utile: 800 46 23 40. Al momento i casi di contagi del nuovo coronavirus sono tutti concentrati nel nord Italia. Nell'ordinanza della regione Emilia Romagna per contrastare il coronavirus dovrebbero rientrare anche le mense per i poveri, come quella della Caritas e dell'Antoniano, ma anche le 3 cucine popolari di Civibò, che di fatto fino al 1° marzo dovrebbero restare chiusi. Oggi a pranzo distribuiamo panini e pranzi al sacco alla cucina del Battiferro, le altre due resteranno chiuse, commenta Roberto Morgantini, fondatore delle cucine popolari. In questo primo giorno abbiamo scelto di chiudere in nome della responsabilità collettiva. E poi alle 14 c'è stato un incontro con i responsabili delle mense della città per capire come procedere durante la settimana. Questo per quanto riguarda dormitori e cucine per i poveri, per mense, insomma, per i poveri. Passiamo allora invece ad altri temi, come quello, restando in tema abitativo, c'è una richiesta: sospendere anche gli sfratti nelle zone interessate dal coronavirus. A chiederlo è Massimo Pasquini, segretario nazionale dell'Unione Inquilini. Grande attenzione sta ricevendo in Italia la questione del contagio. Per questo il segretario dell'Unione Inquilini lancia un accorato appello al ministro dell'interno affinché emani una circolare ai prefetti per la sospensione immediata delle esecuzioni di sfratto ed espropri nei confronti di famiglie che ne sono oggetto, e vediamo se verrà recepita appunto questa questo appello. E parlando poi di carceri, oggi c'è stato un comunicato: è del tutto incomprensibile e ingiustificabile la disparità di misure adottate per fronteggiare il coronavirus, in particolare in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, rispetto alle blande disposizioni adottate per gli istituti penitenziari di quelle stesse regioni. A sostenerlo è il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, secondo cui l'esonero dal servizio per tutti gli operatori penitenziari residenti o comunque dimoranti in alcuni comuni considerati a rischio e la sospensione dei trasferimenti dei detenuti verso altri istituti penitenziari che rientrano nella competenza dei provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze sono peggio dell'aspirina contro il coronavirus. Di Giacomo si rivolge dunque ai prefetti dei capoluoghi e ai presidenti delle regioni direttamente coinvolti dall'epidemia per istituire un tavolo specifico congiunto tra prefetture, regioni, provveditorati e i due ministeri della salute e della giustizia per le misure urgenti da assumere nelle carceri. Questo è quanto si apprende, e questo appunto per i luoghi, per avere un po' più di chiarezza sui luoghi che sono inclusi oppure esclusi da questa ordinanza. Nel frattempo, pochi minuti fa, anzi sta ancora parlando con la stampa e l'assessore regionale uscente alla sanità Sergio Venturi. Noi abbiamo raccolto le sue parole, sentiamo il punto della situazione nella nostra regione. Oggi siamo a 18 casi. 18 casi, di cui 15 a Piacenza, 2 a Parma e 1 a Modena. Piacenza sono 6 in più rispetto a ieri, sono tutti 6 campioni che erano stati fatti ieri, quindi su contatti dei malati che già c'erano. Sono in particolare 3 persone congiunte di un malato che conoscevamo già, e un operatore e altri due contatti. Tutti sono riconducibili al focolaio di Codogno. Senza Codogno. Ormai Codogno lo conoscono in tutto il mondo. Si sentiva Bologna, quindi no. C'eravamo un attimo da Roma. Assessore, tutti e 18 in generale. Sì, adesso ho visto, sì, tutti e 18. Tutti i 18, in particolare adesso vi stavo raccontando quelli di Parma, e quindi quelli che abbiamo, quelli di, scusate, di Piacenza, quelli di Piacenza, quindi adesso abbiamo 5 a casa e 5 in ospedale ricoverati, dei 16 gli altri sono in isolamento. Poi abbiamo 2 casi a Parma che sono, senza entrare nel dettaglio, che non va mai bene, ma insomma sono 2 persone, una che aveva frequentato, era andata sempre in quel posto, che fra un po' ve lo chiedo di dirla in coro, ed è una persona che era andato a fare una balera, insomma in un posto dove si balla, dal suo domicilio. Naturalmente adesso noi stiamo pensando, come una cosa che non faremo mai, ma stiamo pensando a una cosa che c'è da 3 giorni, quindi prima non è che uno faceva l'indovino. L'altro è una donna che assisteva sua madre a Codogno, che era malata in ospedale, quindi anche qui siamo in grado di ricostruire, sono stati bravi gli operatori della sanità pubblica di Parma a ricostruire la catena che riporta sempre al primo anello, che è quello. A Modena la situazione è uguale, perché stiamo parlando di un operatore edile che ha frequentato per 2-3 settimane quelle località che conosciamo. Per quante settimane? Mi pare 2 o 3 settimane. Ha avuto contatti anche comunque con una persona malata, e quindi anche qui siamo in grado di avere ricostruito lo stesso tragitto e lo stesso percorso epidemico. Quindi per fortuna ad oggi non abbiamo nessun nuovo contagio di cui non ci spieghiamo la provenienza. Questo è, se continua, molto positivo. Avevo detto che ci potevamo aspettare nuovi casi, avevo detto che speravo che fossero il meno possibile, naturalmente avevo detto che speravo che quelli fossero comunque tutti riconducibili in quell'area, perché vuol dire che siamo al momento in grado di circoscrivere quel focolaio. Vi ho già detto ieri che stiamo facendo molti tamponi, molti, ne abbiamo fatti in passato, li continuiamo a fare. Vi ho detto che stiamo ancora in fase più aggressiva rispetto alla ricerca, quindi li stiamo cercando anche noi. Non aspettiamo che arrivino a farsi vedere, e quindi ci auguriamo nei prossimi giorni di non trovarci nella situazione di avere casi di cui non sappiamo spiegarci l'origine. Per ora non è così, anzi ci auguriamo per i colleghi veneti e per i cittadini del Veneto che, come abbiamo letto questa mattina, forse c'è un collegamento di nuovo Codogno con Vo e Euganeo, che sarebbe una cosa estremamente positiva. Quindi secondo me nei prossimi 15 giorni ci saranno molti elementi, non dico decisivi, ma molti elementi che ci potranno portare ad una delle due ipotesi prevalenti che leggete anche voi e che appassionano tanto, oltre che i cittadini, anche i virologi, alcuni sostenendo che siamo di fronte a un'influenza e altri invece che sostengono che invece siamo di fronte a un'influenza molto più seria. Io dico che ad oggi i dati controllati rispetto a coloro che sono positivi sono circa 200 casi, un po' di più, ma facciamo conto che siano 200, perché è un numero sui quali si calcola bene le percentuali. Di questi 200 abbiamo 90 persone che se la stanno passando a casa loro, perché sono quasi la metà, per dire che su 200 capisco che siano pochi, ma ci sono 200 persone che sono a casa loro perché evidentemente hanno dei sintomi che possono essere tranquillamente sopportati a domicilio. 90 sono ricoverati in malattia infettiva, naturalmente sto parlando di Italia in questo momento, perché non abbiamo per fortuna 200 casi, e 20 che sono ricoverati in terapia intensiva. Una ventina ricoverati in terapia intensiva nelle terapie intensive italiane, insomma, nelle 5 regioni che attualmente hanno casi. Quindi stiamo parlando al momento di una patologia che al di fuori del 37enne ha aggredito e fatto del male a persone che sono accanto agli 80 o sopra gli 80. Per cui anche questi sono elementi di carattere positivo che volevo segnalarvi, perché ci dobbiamo pur dire delle cose anche che siano positive. Sapete che da domani... L'indigesto. Once there was a mountain called Peak 15. Nothing was known about it. But in 1852, the surveyors found it was the highest in the world, and they named it Everest. Avete sentito le parole di Sergio Venturi, assessore regionale alla sanità, che ha fatto il quadro dell'Emilia-Romagna. Ha detto che tutti i casi positivi nella nostra regione, sono 18, sono tracciati, quindi si sa da dove vengono, e che molti stanno bene, sono in quarantena a casa propria, e quindi questo sicuramente è un segnale positivo. Ci sono però anche dei segnali negativi che riguardano i gesti di sciacallaggio che si fanno purtroppo in questi casi, e purtroppo quando ci sono situazioni di emergenza o tragedie, purtroppo succede. Ad esempio, uno si è registrato a Piacenza, che è la città emiliano-romagnola più colpita dal virus, e spuntano i finti operatori sanitari, tanto che i vigili invitano i cittadini a respingere qualsiasi approccio. Sono state segnalate alla polizia locale, spiega una nota della municipale, telefonate da parte di sedicenti operatori sanitari che millantano la necessità di eseguire a domicilio il tampone per la rilevazione del coronavirus. Dal comando arriva l'indicazione di respingere tali proposte e di non lasciare accedere alla propria abitazione chiunque si presenti con tale motivazione. Si ricorda infatti che gli operatori sanitari effettuano visite ed eventuali esami a domicilio solo se allertati preventivamente dai cittadini stessi, che attraverso il medico di famiglia, il 118, il numero nazionale 1500 o lo 0523 317979, istituito dall'azienda USL di Piacenza, abbiano segnalato sintomi sospetti o la necessità di accertamenti. In nessun caso avviene che siano gli operatori sanitari a contattare di propria iniziativa le persone, né telefonicamente né presentandosi alla porta. Quindi insomma, questi sono degli sciacalli che cercano di approfittare della situazione di emergenza per raggirare, fare truffe o derubare le persone. E poi ci sono notizie che riguardano scene purtroppo di panico, di psicosi, con l'assalto ai supermercati. Le foto insomma sono circolate in vari contesti, mercati aperti, l'esplicito invito alla popolazione a non affollare i supermercati. Anche Ravenna fa i conti con l'ordinanza firmata ieri dal ministro della salute Roberto Speranza, d'intesa con il presidente della regione Stefano Bonaccini, per il contenimento e la gestione della diffusione del coronavirus, con il comune in attesa da parte degli stessi stessi Ministero e Regione di note esplicative che ne dettagliano maggiormente i contenuti. Però l'appello è quello rivolto ai cittadini di non affollare i supermercati, dato che le principali catene della grande distribuzione hanno fatto sapere di essere in grado di ricevere approvvigionamenti adeguati e costanti. Tra gli eventi annullati, poi ci sono una serie di eventi annullati che non vi salto, però insomma non c'è nessun bisogno di recarsi e fare scorte infinite nei supermercati. E questa cosa sta succedendo anche a Bologna, non solo a Ravenna. E purtroppo invece un altro fenomeno che si sta manifestando è quello della speculazione sui prezzi, in particolare sui disinfettanti per mani e sulle mascherine. Nelle ultime ore sono aumentati più del 200%. Su questo tema Federconsumatori ha fatto un esposto al garante dei prezzi, appunto, della concorrenza, e ha segnalato la cosa anche al Ministero della Salute. Procede anche per vie legali. Noi abbiamo raggiunto il presidente nazionale di Federconsumatori, che è Emilio Viafora. Allora sentiamo le sue parole. Abbiamo rilevato una vera e propria azione truffaldina, speculativa, e io dico ai limiti dello sciacallaggio, messo in atto da alcuni fornitori di mascherine o di presidi alcolici e di gel disinfettanti, utilizzando la grande domanda che è stata determinata, che si è determinata a causa del coronavirus. Dunque abbiamo verificato su una serie di piattaforme aumenti che stamattina sono ancora più gravi di quelli che avevamo registrato ieri. Andiamo ben oltre il 200% del costo normale. Ovviamente questa pratica non si può fare. Questa pratica sarebbe vietata. È vietata per i medicinali e per i presidi farmaceutici, per cui è previsto il prezzo imposto. Molto di queste truffe, questi raggiri, queste vere e proprie azioni vengono compiute attraverso gli acquisti online, attraverso le piattaforme. Questo comporta, secondo me, anche una responsabilità delle piattaforme stesse, perché chi viene di Amazon, che loro non rispondono di quello che fanno i venditori o i produttori o chi mette in vendita i prodotti, ci sarebbe una norma che comunque obbliga qualche misura le piattaforme a non prestarsi ad attività speculative e attività truffaldine. Per questo motivo, tra l'altro, abbiamo deciso di segnalare, oggi partirà la segnalazione al garante del mercato, al Ministro della Sanità e all'autorità competenti per punire e multare tutti i soggetti che adottano queste pratiche commerciali, che dire scorretto e dire poco. Quindi insomma sì, avete deciso di agire anche sul piano della segnalazione, insomma. Della segnalazione sul piano legale, perché ci troviamo, è vero che c'è una paura eccessiva, ma si utilizzano, questi qui sono veri e propri investitori sulla paura. Mi ricordo un po' quello che è avvenuto durante il terremoto dell'Aquila, che mentre c'era una tragedia in atto, quelli ridevano perché potevano fare affari. Questi si comportano allo stesso modo, è un'azione propria di sciacallaggio, ci gioca su gli elementi di cautela, di prevenzione, di paura che si è determinata tra le persone. l'indigesto. 17:33 minuti, torniamo in diretta qui all'Indigesto, il nostro spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko, oggi in una versione un po' particolare perché è uno speciale ovviamente dedicato alla questione del coronavirus. Vi abbiamo detto della, come dire, dato i dati, diciamo così, sanitari, abbiamo parlato anche della speculazione che avviene sulle piattaforme online per il prezzo dei prodotti sanitari, come dire, disinfettanti per le mani e mascherine, abbiamo parlato anche degli assalti ai supermercati e ora parliamo un po' di quello che riguarda nello specifico Bologna, ma non solo. Passiamo dai trasporti, perché i trasporti, lo ricordo, sono esclusi dall'ordinanza regionale sul coronavirus, cioè il trasporto pubblico è ancora attivo e in particolare Tiper ha fatto sapere di disinfettare i bus a Bologna e Ferrara per arginare appunto il coronavirus. Dopo l'ordinanza emanata ieri dalla regione, l'azienda di trasporto ha messo in campo un piano straordinario integrativo rispetto a quanto già avviene abitualmente. In particolare, già a partire dalla scorsa notte, ad ogni rientro in deposito dei bus viene effettuato un intervento mirato di disinfezione con utilizzo di prodotti a base di ipoclorito di sodio e di prodotti similari a base di cloro con la medesima efficacia. Particolare attenzione viene dedicata al posto guida del conducente e alle altre parti di maggiore contatto, tra cui tutti i mancorrenti, gli appoggi e i sedili. Inoltre, dettaglia ancora una nota, durante le previste operazioni di manutenzione è stata disposta la pulizia straordinaria con sanificazione dei filtri aria degli impianti di riscaldamento e condizionamento. È disposta infine la periodica vaporizzazione con prodotti specifici a base di cloro sull'intero mezzo. Tiper, recita ancora il comunicato, continuerà ad osservare con attenzione le indicazioni che perverranno dalla cabina di coordinamento regionale istituita dalla Regione Emilia-Romagna e dai rispettivi territori di competenza, adottando tutte le misure necessarie per tutelare l'utenza e il personale in servizio. L'azienda comunque inviterà l'utenza al rispetto delle norme igienico-sanitarie contenute nello stesso documento allegato, nello spirito di collaborazione con le istituzioni e in una logica di prevenzione, senza che ciò comporti allarmismi, e al fine di garantire adeguate condizioni di viaggio sui mezzi di trasporto collettivi anche in questo periodo di grande attenzione pubblica. Questo è dunque il comunicato di Tiper. Veniamo poi al comune di Bologna, perché oggi a prendere la parola è stato anche il sindaco di Bologna Virginio Merola. Oggi era giornata di consiglio comunale. Al momento nell'area metropolitana di Bologna e nel nostro comune non si riscontrano casi accertati di contagio. Le misure adottate dalla Regione Emilia-Romagna fino all'1 marzo sono dunque, lo ripeto, precauzionali, afferma appunto Virginio Merola intervenendo in consiglio comunale sull'emergenza coronavirus. Le misure varate dalla regione rappresentano un provvedimento di carattere precauzionale teso ad affrontare un'emergenza inedita e in evoluzione, dice Merola, scusate. Chiedo di applicare l'ordinanza per il bene individuale di ognuno e della nostra collettività, di applicarla quindi e di non perdere tempo a discuterla, è l'appello del primo cittadino. Nell'affrontare il coronavirus è importante assumere i comportamenti specifici contenuti nel decalogo già da giorni diramato dal Ministero della Salute, ma allo stesso tempo è altrettanto importante non cedere a comportamenti ingiustificati o dettati da sensazioni di allarme eccessivo. È l'appello appunto che rivolge Merola alla cittadinanza. E beh, insomma, l'allarme, diciamo che al di là dell'assalto ai supermercati, è palpabile e qualche effetto lo produce. Ad esempio, è una cosa che è successa oggi a Riccione. La paura del coronavirus, ma soprattutto della quarantena, ha fermato i cantieri di Riccione in provincia di Rimini. Temendo di dover sottostare alla quarantena al ritorno a casa, infatti alcuni operai lucani che lavorano al cantiere della passeggiata Goethe Shakespeare del comune della Riviera Romagnola questa mattina non si sono presentati al lavoro e quindi il cantiere è fermo. A farlo sapere l'assessore comunale ai lavori pubblici di Rimini, Lea Ermeti, aggiungendo che gli uffici tecnici del comune, i dirigenti, la società incaricata dei lavori e lei stessa sono al lavoro per poter trovare una soluzione nel giro di pochi giorni. La vicenda, spiega l'assessore riccionese, nasce dopo l'ordinanza presentata appunto dalla regione Basilicata, che ha stabilito come chi rientra in Basilicata e provenga dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna o Liguria, o che vi abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni, dovrà rimanere in quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni, comunicando la propria presenza ai competenti servizi di sanità pubblica. Poi la regione Basilicata ha precisato che questa norma riguarda gli studenti universitari e non i lavoratori. Come vedete c'è molta confusione. Scusate, e a proposito di lavoratori, oggi i sindacati medici hanno lanciato un appello per garantire le dovute protezioni ai lavoratori che in questi giorni stanno facendo l'impossibile, i lavoratori della sanità, quindi medici e infermieri, in modo da avere le protezioni individuali, innanzitutto i dispositivi di protezione individuali, ma anche sufficiente personale e posti letto. La nostra Teresa Fallavolita ha intervistato Costantino Troise, che è il segretario nazionale della NAO Assomed. Allora sentiamo cosa ci ha detto. La situazione attuale è quella di un paese alle prese con un evento assolutamente imprevisto, insomma, che affronta con due grossi limiti: carenza di personale e di posti letto, frutto di una politica di definanziamento decennale del sistema sanitario. Ci sono stati anche ovviamente dei grossi ritardi dal punto di vista organizzativo, deficit di comunicazione da parte dell'amministrazione rispetto a tutti quanti gli operatori, difficoltà di mettere in campo un cronoprogramma chiaro per tutti, l'alternanza dei turni, insomma, le caratteristiche della quarantena coatta o volontaria. C'è un sistema sanitario che è stato colto di sorpresa alla sprovvista e che oggi sta cercando di reagire senza allarmismi e caricandosi i medici ospedalieri di una responsabilità notevole, con senso di abnegazione e spirito di sacrificio. Tenga per stendersi, ci sono persone che fanno turni anche di 24-48 ore senza avere possibilità di avere un cambio, insomma. Si spera che dopo il primo momento in qualche modo le amministrazioni e i medici riescano a coordinarsi per organizzare una risposta efficace la più possibile. Volevo infatti chiederle come hanno influito le politiche sulla sanità degli ultimi anni. Questo è un paese che vive a filo per quanto riguarda il personale e per quanto riguarda i posti letto, soprattutto nelle aree più esposte, penso al pronto soccorso, è in perenne emergenza. Basta la malattia di qualche medico, la necessità di assicurare le ferie nel periodo estivo, i picchi dell'influenza stagionale o il caldo di agosto. È chiaro che questi due fattori, carenza di personale e carenza di posto letto, rischiano di essere un grosso limite se i numeri dovessero crescere e se avessero bisogno di trattare più persone ammalate e soprattutto più casi gravi con della terapia intensiva e ventilazione assistita, insomma. Occorre in questo caso pensare anche a risorse aggiuntive di personale e a dei provvedimenti straordinari. Quali sono per esempio per adesso le misure di protezione da attuare per medici, personale in generale? La prima cosa da fare è quella di dotarli di idonei dispositivi di protezione individuale. La seconda è quella di trovare spazi separati e distinti per dividere il triage, cioè la selezione dei pazienti che vanno al pronto soccorso, quelli con sospetto sindrome da coronavirus, quindi con disturbi respiratori, e quelli invece che hanno altre patologie, per evitare che il pronto soccorso diventi luogo di contagio, come già è stato in un caso, insomma. La terza cosa è pensare anche a un triage, quindi a una selezione dei pazienti pre-ospedaliera, insomma. In qualche modo anche dei contatti telefonici per provare a smistare quanto più possibile i pazienti senza che si vedano costretti, disorientati, impauriti ad andare al pronto soccorso. Ma è chiaro che per tutto occorreranno organizzazione, occorreranno tempi, spazi e soprattutto risorse, insomma. Vediamo se i numeri rimangono contenuti come sono oggi. C'erano 50 contagiati, saranno 20, una cinquantina di persone con sintomi, una metà ricoverate, oppure dovessero invece dilatarsi. L'indigesto. Torniamo in diretta sui 103.100 di Radio Città Fujiko, continuiamo a parlare di coronavirus. Poco fa abbiamo parlato della situazione dei lavoratori della sanità che sono in trincea, sono in prima linea in questi minuti, e abbiamo sentito appunto un sindacato che lanciava un appello per avere le giuste dotazioni di sicurezza e anche il personale e i posti letto, ma non sono solo i lavoratori della sanità a essere coinvolti da questa ordinanza regionale, dal coronavirus in generale, ma dall'ordinanza regionale che, come vi dicevo, ha portato alla chiusura di diversi luoghi come scuole, musei, eccetera eccetera. Questo pomeriggio in regione si è tenuto un incontro tra il nuovo assessore regionale al lavoro Vincenzo Colla e i sindacati. Noi siamo al telefono con il segretario generale della CGIL dell'Emilia Romagna, Luigi Giove, che saluto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ecco, come è andato l'incontro in regione? Intanto fatemi dire che vorrei esprimere grande vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della sanità che in queste ore stanno facendo un lavoro importantissimo con grande dedizione, abnegazione, ed è la cosa più importante che sta avvenendo in queste ore. Quindi intanto un grande ringraziamento a queste lavoratrici e a questi lavoratori. Certo. Per quel che riguarda l'incontro di oggi, noi abbiamo apprezzato unitariamente come CGIL, CISL e UIL la tempestività della convocazione da parte della Regione Emilia-Romagna di un tavolo con le parti sociali per fare il punto su quelle che sono le criticità che già stanno emergendo, i problemi che sono già emersi e anche quelli che si presenteranno. Anche le associazioni datoriali hanno contribuito a fare un quadro di quelle che sono le prime necessità e anche gli sviluppi probabili nei prossimi giorni. Tutti abbiamo convenuto sul fatto che sia necessario avere degli strumenti di carattere nazionale che siano nelle condizioni di dare ampia copertura sia ai lavoratori che alle imprese. Adesso siamo, diciamo così, in un cono d'ombra, in una fase che non è meglio definita, nella quale ci sono ancora tanti troppi buchi rispetto alle garanzie sia salariali che occupazionali che per la continuità delle imprese. Quindi la situazione è molto delicata, però una volontà è emersa abbastanza chiaramente da quel tavolo, cioè che l'Emilia Romagna ha intenzione di affrontare questa crisi, come ha già fatto in precedenza per altre gravi, e ha intenzione di farlo in maniera unitaria e non lasciando indietro nessuno. Certo, ecco, quindi insomma la necessità di un intervento a livello nazionale, insomma in queste ore già lo anticipava, e quindi si stanno moltiplicando anche le domande di quei lavoratori che si sono ritrovati l'ordinanza così e la chiusura magari del posto di lavoro, penso agli educatori delle scuole e altre categorie, e che vogliono sapere, come dire, essendo costretti a rimanere a casa, poi se avranno una continuità salariale, o quelli invece che continuano a lavorare, se ci saranno delle misure di sicurezza per tutelare la loro salute. Ecco, quindi insomma tutto è rimandato a Roma? Allora, domani c'è l'incontro tra parti sociali e governo al Ministero del Lavoro, presente anche il Ministero dello Sviluppo Economico. Alla luce dell'esito dell'incontro di domani, è stata istituita una task force a livello regionale, e per quel che riguarda CGIL e CISL e UIL già a partire da mercoledì saremo nelle condizioni di cominciare a fare le verifiche su come eventualmente applicare gli eventuali provvedimenti del governo o come intervenire a livello regionale. Noi abbiamo chiesto alla Regione Emilia-Romagna di adoperarsi insieme a noi a sostegno di un intervento da parte del governo, ma abbiamo anche detto fin da ora che in mancanza di un provvedimento nazionale noi chiederemo alla Regione Emilia-Romagna di intervenire in termini sostitutivi. Certo, quindi una cosa molto concreta, a chi in queste ore si sta domandando che cosa fare può consultarvi comunque? Certo, le nostre sedi, questo lo abbiamo detto oggi, l'abbiamo ribadito anche oggi in termini unitari, le sedi del sindacato di CGIL, CISL e UIL sia per quel che riguarda le categorie e le strutture confederali, sia per quel che riguarda la tutela individuale, le sedi rimangono tutte aperte, noi siamo nel pieno dell'operatività e garantiremo continuità nell'attività sindacale nei prossimi giorni. Perfetto, grazie mille a Luigi Giove. Grazie. Ringraziamo allora il segretario generale della CGIL dell'Emilia Romagna, Luigi Giove, e andiamo avanti con un po' di musica, poi torniamo a parlare di lavoro, perché i sindacati confederali non sono gli unici che hanno preso la parola quest'oggi. Di Rodrigo e Gabriela con Tamacun, torniamo insieme qui all'Indigesto in questa puntata dedicata al coronavirus, perché abbiamo sentito poco fa le parole di Luigi Giove, segretario regionale della CGIL, che diceva sostanzialmente, faceva un resoconto del tavolo in regione in cui non si è deciso qualcosa nello specifico, ma si è sottolineata la necessità di un provvedimento a livello nazionale proprio per tutelare lavoratrici e lavoratori che per forza di cose sono costretti a rimanere a casa dal lavoro, perché magari sono lavoratori delle scuole e le scuole sono chiuse, sono lavoratori dei musei e i musei sono chiusi, e quindi insomma questa è un po' la questione. E al tavolo non sono stati invitati i sindacati di base, e in particolare oggi sono arrivati dei comunicati stampa da parte dell'Unione Sindacati di Base USB e anche dal Sindacato Generale di Base SGB, che di fronte a questa situazione intanto lamentano di non essere stati convocati, e dall'altra dicono anche che quello che preme loro è che non sia fatto pagare un euro ai lavoratori appunto per questa situazione, per l'ordinanza e la situazione del coronavirus da un lato, e dall'altro quelli che continuano a lavorare in particolare nel settore privato siano dotati di tutte le necessarie misure per garantire la propria incolumità, la propria salute. Noi abbiamo raggiunto Massimo Betti di SGB, sentiamo cosa ci ha detto. È stato fatto un decreto ed è stata fatta un'ordinanza locale che hanno valore di norma, per cui noi da quello partiamo. Stando nello specifico regionale, quell'ordinanza, l'ordinanza prima di Bonaccini del Ministro della Salute, è un'ordinanza che in moltissimi enti pubblici e parapubblici è inapplicabile, ma anche, voglio dire, nei posti lavoro privato. È inapplicabile perché gli strumenti in dotazione per quello che riguarda la prevenzione e la sicurezza non ci sono, ma è inapplicabile anche per tanti altri motivi. È un'ordinanza piena di lacune e di contraddizioni, tant'è che noi siamo subissati da richieste chiaramente già da ieri, in verità, da lavoratori di vari settori, perché ogni ente sta andando un po' a modo suo. Ti posso fare degli esempi banali: c'è un'agenzia fiscale che aveva le mascherine nei magazzini, per cui erano altre mascherine ai lavoratori, non si sa come, perché, per come. Ci sono alcune biblioteche che secondo l'ordinanza di Bonaccini devono rimanere aperte, che invece a mio avviso nel momento in cui hai deciso di chiudere tutto il resto hanno chiuso comunque, cioè ognuno sta andando moto proprio. Il comune di Bologna tiene aperti i centri diurni mentre altri comuni fanno il contrario, cioè c'è un caos indescrivibile. In questo caos i lavoratori rischiano due volte: uno, rischiano perché non c'è chiarezza, non c'è trasparenza, e quindi c'è una difficoltà anche a mettere in piedi quelle norme, quelle comportamenti che appunto dovrebbero in qualche modo tutelare tutti. Secondo, rischio dal punto di vista economico, perché non sono tutte le categorie di lavoratori coperti da queste scelte. Nella scuola, tanto per dire ieri, nella giornata di domenica, c'è stata una cosa ridicola, che l'ufficio stampa di Bonaccini se ne è uscito dicendo che le elezioni erano sospese, e nel contratto collettivo nazionale di lavoro sospese vuol dire che i lavoratori ATA, cioè i non insegnanti, diciamo, devono andare a lavorare. Poi, dopodiché, invece, nella direttiva, nell'ordinanza, che è apparsa poi solo a tarda sera, nel, diciamo, in termini di pubblicità, vi era invece la chiusura. Nella chiusura i lavoratori ATA invece possono stare a casa, per dirti insomma qual è la confusione. Ma abbiamo il problema di tutti i lavoratori in appalto, cioè tutti coloro che lavorano in appalto per i servizi pubblici, ad esempio nelle scuole, rischiano di rimanere a casa e di non prendere lo stipendio, addirittura una decurtazione che può essere solo per 14 giorni pari a più del 30%, e questo è un uso, diciamo, comune. Non c'è una normativa sulla sicurezza e quindi sui rischi che sia adeguata a questa cosa. Insomma, su questo noi abbiamo chiesto chiarezza, strumentazione e soprattutto che i lavoratori non perdono neanche un euro. Ma provate a pensare a tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori che hanno i figli a casa da scuola, per adesso fino al 1° marzo, e che si troveranno costretti a stare a casa. Come vengono coperti quei lavoratori? Tagliando dei propri diritti, cioè tagliando le ferie, oppure prendendo dei permessi non retribuiti da recuperare chissà quando? Ma quei lavoratori devono essere retribuiti, devono essere considerati come se fossero in un orario di lavoro, non c'è alternativa. I lavoratori del settore privato che non possono andare a lavorare? E cosa facciamo? Ci vogliono ammortizzatori sociali straordinari. Su questo noi abbiamo chiesto che la regione ci incontrasse urgentemente. La regione ci ha fatto sapere che oggi invece incontra solo coloro che sono i firmatari del patto del lavoro, cioè CGIL e CISL e UIL, come se i lavoratori che non afferiscono a questi sindacati, come dire, fossero lavoratori di serie B, per loro il coronavirus fosse un po' diverso, insomma non avesse le stesse conseguenze. E ci è stato detto che questo tavolo è gestito direttamente dal nuovo assessore Colla, cioè ex segretario nazionale della CGIL, che quindi comincia proprio malissimo, comincia convocando i suoi amici. Lui a quel tavolo avremmo detto molte cose, avremmo chiesto molte cose in linea con quello che vi ho appena detto, non lo possiamo fare, quindi oggi pomeriggio partirà la richiesta di apertura del tavolo in prefettura per arrivare fino allo sciopero territoriale e regionale, perché su queste cose non si può scherzare, cioè come la regione sta gestendo questa cosa nel nostro territorio è proprio il metodo peggiore, perché crea panico, perché non c'è trasparenza, non c'è tranquillità, c'è il caos assoluto. Quindi insomma dobbiamo aspettarci uno stato di agitazione. Sì, sì, noi non siamo stati convocati, quindi lo stato di agitazione partirà, vedremo se Colla avrà buon senso di comprendere che la regione non è patrimonio dei suoi amici e basta, ma deve essere patrimonio di tutta la cittadinanza e di tutti i lavoratori indistintamente dalle loro appartenenze. Se questo non avverrà, noi andiamo fino in fondo, perché già sappiamo che su alcune cose le richieste di CGIL, CISL e UIL, che quindi faranno a quel tavolo, sono totalmente inadeguate. Insomma, hanno dichiarato l'emergenza, non l'abbiamo fatto noi, hanno dichiarato l'emergenza sanitaria in questo territorio, i lavoratori non devono rimetterci nulla, è semplice, né in salute né tantomeno dal punto di vista economico. L'indigesto. Siamo arrivati alla fine di questa puntata speciale dell'Indigesto sul coronavirus. Ovviamente non smetteremo di aggiornarvi, di informarvi, e insomma cercheremo di tenere sotto controllo anche noi la situazione. Io vi ricordo che sul sito radiocittafugico.it potete riascoltare quanto andate in onda e potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, su Twitter, su Instagram, Spotify e YouTube. Noi ci ritroviamo domani alle 17 con come di consueto, passate una buona serata e seguite ovviamente le norme sanitarie per limitare il contagio da coronavirus. Prima mi ha scritto anche un ascoltatore che mi sentiva tossire, era solo la saliva di traverso, ve lo giuro. Sto bene, nel caso non stessi bene non verrei a lavorare. Intanto grazie per averci ascoltato e buona serata.